Bentornati e bentornate a Slick Chick, Radio Wombat, che venerdì oggi, mi sembra già venerdì perché sono provatissima, ma invece no, invece è, che giorno è? Lunedì. Ecco, infatti, e te sei il microfono 3 e non il microfono 2, ma guarda come stiamo messi oggi. Esatto, è un lunedì faticosissimo, siamo reduci da mille fatiche, tanta musica, tante cose, e quindi insomma ci perdonerete, spero, per il ritardo con cui iniziamo questa puntata e anche per la flemma con cui la porteremo avanti. Ma d'altronde i calendari insomma servono soltanto per scandire, diciamo, gli impegni, ecco, ma che cosa ci importa di lunedì o di un venerdì? Quindi vi partiamo con i contatti di Radio Wombat, se no ce li dimentichiamo. RadioWombat.net, il sito al quale potete insomma rimanere in contatto anche per capire bene il palinsesto, i vari cambiamenti, le nostre trasmissioni a che ora vanno in onda, e poi potete ascoltarci in streaming attraverso il sito, chiaramente, e poi la nostra frequenza 13.59 in onde medie. Tra l'altro il nostro pad della diretta Wombat, .vado.li, ci scrivono: ciao, vi ascolto con una radio del 1950 a Novoli Forti e Chiari, e questa roba ci fa veramente strapiacere, ti salutiamo, o te che ci scrivi, e grazie mille di questo feedback. Scriveteci per farci sapere se ci ascoltate in onde medie, se il nostro segnale vi arriva disturbatissimo oppure invece è abbastanza intelligibile, e fin dove anche. Sì, vabbè, già che ci siamo, diamo anche un po' di informazioni, tipo se siete lungo l'autostrada dovreste riuscire a sentirci, i nostri storici nemici sono i tralicci delle tranvie, e questi i forni a microonde, però in particolare dall'autostrada dovreste riuscirci a sentire, e più che altro un pochino, a dire il vero, nelle zone periferiche, quindi anche se un po' lontano provateci, perché ci sta che ci sentite dall'Appennino. Esatto, esattamente. E quindi abbiamo iniziato questa puntata di Slick Chick con i Dinosaur Junior e con Forget the Swan. E qui c'è un dilemma: ma parleranno oggi di cigni oppure di dinosauri? Dinosauri! Ovviamente parleremo di dinosauri. E sì, il rischio di una monografia sui Dinosaur Junior va da sé, sì. Parlando appunto di dinosauri. Ma ci sono altri gruppi che insidiano questo rischio. Sì, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro davvero bellissimo, perché davvero caratterizzanti di noi due, no? Sì, direi che i nostri cavalli di battaglia, dai. Sì, il nostro dinosauro di battaglia. Il nostro dinosauro di battaglia, davvero, sì. No, dai, iniziamo quindi proprio con i Dinosaur Junior, questa puntata sui dinosauri, sul dinosauro, ecco, come tema, ecco, come contesto e immaginario. I Dinosaur Junior sono, come abbiamo appena detto, un gruppo per cui sbaviamo, in verità entrambi, e ci piacciono tantissimo, storici dagli anni 80, sono mega prolifici, hanno fatto tantissimi dischi, hanno passato, diciamo, tutte le... No, non tutte, diciamo, le due principali fasi di interesse, forse del punk, della musica alternativa dagli anni 80 in poi, quindi un po' la new wave e diciamo le nuove forme di anni 80 e poi l'esplosione degli anni 90 con il grunge, i Sonic Youth e quello che è stato. E in effetti li fondono un po' insieme. Cioè, assolutamente. Hanno dei suoni molto, molto cioè, non così definiti, nel senso non sono un genere preciso forse, oppure si ha difficoltà forse a incasinare. Allora, Mashis, cioè il chitarrista, i frontman, il capellone flemmatico... che insomma il frontman loro è un personaggione, cioè allora il gruppo ha avuto una sua evoluzione dagli anni 80 agli anni 90, cioè loro vengono nonostante tutte le tematiche un po' melenze su, diciamo tendenti al triste sull'individualità, l'alienazione eccetera eccetera, loro vengono dall'hardcore e hanno delle influenze insospettabili anche da lui negli anni 80. Questa cosa, cioè, a cioè, me mi fa ridere. Pensare a lui, è vero, è così. Pazzesca, sì. E lui era un sottone, andava ai concerti negli anni 80, cioè il pezzo che avete sentito ora era del suo periodo in cui andava a sentire i concerti Oi. E però faceva questa roba qua. Diciamo. Non si direbbe, assolutamente, no. E quindi, insomma, lui ha come influenze una musica molto più dura di quella che fa. La cosa che è caratteristica in tutto quello che hanno fatto è queste follie di assoli alla chitarra e di distorsioni. Questa roba qua ce l'ha sempre avuta. Poi sono stati più o meno melodici, più o meno distorti, proprio come tutto il suono che era negli anni 90, cioè si doveva... Se c'era una cosa lineare eri un infame, eccetera, eccetera. Però sì, diciamo, hanno avuto un po' una loro evoluzione interna, però di base sì, caratterizzati da questa chitarrona sua e da questi effetti che aveva la chitarra. Cioè lui è stato uno dei, diciamo... Leggenda vuole creatore, non ne ho certezza e poco ci interessa, però insomma uno dei principali fautori del Big Muff, il pedalone che ha caratterizzato i My Bloody Valentine, Sonic Youth, un sacco di gruppi di proprio iconici di quel periodo là, che tra l'altro poi nel prezzo che metteremo dopo è l'apertura, è proprio quel pedale là, ed è, capirete di cosa stiamo parlando. Sì, è molto caratteristico, tra l'altro viene... ancora usato moltissimo da tanti chitarristi. Sì, no, come lui resta proprio super influente, nel senso come stile, di come suona la chitarra e anche come personaggio. Tipo, tra le altre robe, cioè lui e Ian McKee sono spesso citati, no, come diciamo i veterani, no, del punk che sono rimasti comunque sia in qualche modo fedeli alle loro robe. E lui in particolare, ad esempio, Jay Mashis, il chitarrista cantante di Dinosaur Junior, è ancora uno skater. C'è ancora uno skater, ma c'ha un'età. Sì, c'ha un'età. Ma poi io sono super incuriosito da lui perché davvero è conosciuto per essere flemmatico, monosillabico, cioè una persona tipo... E poi quando poi produce musica è esplosivo. Ci sono delle interviste super divertenti in cui gli chiedono se è felice della sua carriera e lui dice non ha tempo per pensare a che cos'è la felicità. Grande. Cose del genere. Tipo no, non posso essere tipo can be bothered, non posso essere disturbato, ecco, da ragionare su... È un personaggio particolare, sì. Ottima risposta, sì, devo dire. Sì. Tipo un'altra cosa buffa è tipo che fa nonostante appunto ecco questa sue passioni per controculture, cose abbastanza radicali, poi comunque sia il peccato di essere americano ce l'ha addosso e quindi tutte le mattine fa yoga, tipo, che ne so, fa queste... certo, perché è flammatico, abbiamo detto. Sì. No, poi però va a sentire i concerti Oi. Sì, no, è... Che cofanetto di assurdità. È un personaggio... Sì. Sempre felici di ricordarvi appunto tutti gli aspetti più assurdi della musica che ci piace. Esatto, e forse è per quello che ci piace. Sì. Quindi forse facciamovi sentire un altro pezzo sempre dei Dinosaur Junior, questa volta... Allora, prima abbiamo... dicevamo, mi avevamo fatto ascoltare in apertura Forget the Swan del 1985. Siamo proprio all'inizio, il primo disco, Dinosaur. E invece il secondo disco è del 1987, quindi un paio d'anni dopo, You're Living All Over Me, e questo brano invece è, boh, secondo me spaziale, bellissimo, e si chiama Little Fury Things. Vediamo se mi riesce di farlo partire. Esatto, è questo qua che inizia con questa schitarrata assurda. Bella. Questi erano sempre i Dinosaur Junior, io non so, lo dico sempre in maniera diversa, i dinosauri, ma diciamo il come piccolo si piace. Dinosauro, i piccoli dinosauri neri cuccioli di panda, bellissimi, bellissimi, carinissimi. Dinosaur Junior, Little Fury Things del 1987, con un'apertura che, ripetiamo, pazzesca, incredibile, sì negli annali. E appunto a scalzare i Dinosaur Junior, ma come vedrete non per tanto, dalla nostra scaletta ci sono i T-Rex, perché i T-Rex sono l'altro gruppo che non potevamo non mettere su una scaletta dedicata ai dinosauri. E i T-Rex sono una mia grande fissazione, dato che, come gli ascoltatori e le ascoltatrici di Slick Chick sanno, ai voi, che sono leggermente fissata con il glam, e quindi i T-Rex come faccio a non parlarvene tipo fino allo sfinimento. Tant'è che in realtà, se vi andate a riguardare un po' di vecchie puntate di Slick Chick, troverete tipo 750 riferimenti al vario glam degli anni 70, all'inizio anni 70, soprattutto quello inglese, devo dire forse solo quello inglese, e tra cui chiaramente c'erano i T-Rex, perché erano un po' un gruppo, si può dire forse il primo gruppo glam, perché insieme a Bowie e ad altri, gli Sweet, insomma vari altri, però diciamo sono stati un po' i primi effettivamente a aprire questo filone. E i T-Rex sono interessanti secondo me da un milione di punti di vista, ma in particolare trovo che siano molto sottovalutati dal punto di vista, almeno in Italia, ecco, dal punto di vista di cambiamenti radicali anche sociali che hanno ispirato, perché venivano, ricordiamocelo, siamo all'inizio degli anni 70, in particolare i T-Rex all'inizio si chiamavano Tyrannosaurus Rex, si chiamavano proprio così per esteso, ed erano un duo che si è formato in realtà molto presto, era nel 67, quindi iniziano ancora prima degli anni 70 e fino al 70 per 3 anni si chiamano Tyrannosaurus Rex, poi cambiano nome perché forse qualcuno gli avrà fatto notare che cazzo è un po' lungo e allora hanno deciso di accorciare in T-Rex. E però insomma nascono presto ed erano, ricordiamoci, gli anni della Summer of Love, degli hippie, di Jimi Hendrix, John Baez, insomma Jefferson Airplane quando andava bene, ma per il resto fondamentalmente la musica al tempo era dominata dagli hippie e dal folk, però quel folk soprattutto di ispirazione, devo dire, anglosassone, in particolare veniva dall'America, che a ben vedere, e questo è uno studio, insomma sono stati vari studi fatti dopo, devo dire, perché al tempo forse era anche difficile rendersene conto, però molto omologanti, molto anche con dei generi ben definiti, un ideale della famiglia molto preciso, un'idea in fondo anche molto poco rivoluzionaria. Vabbè, in fondo, cioè, era nel 68, insomma i Jefferson Airplane erano una forma di ortodossia quasi, se vogliamo, ecco. Ma poi soprattutto c'era proprio questa cosa anche nella performance proprio musicale, dove comunque per esempio le donne erano vestite da donne proprio in tutte le caratteristiche come dire normative, normalizzanti, femminili, quindi avevano tutti dei vestitoni lunghi con fiorelloni, capelli lunghi, erano molto molto femminili. Almeno secondo i canoni più cliché, e gli uomini al contrario erano, sì, ok, avevano i capelli lunghi e questo creava all'inizio degli scompensi, ma in realtà per il resto avevano tutte movenze e atteggiamenti estremamente macisti, se ci pensiamo, tant'è che ad esempio Jimi Hendrix era un come dire un simbolo del macismo con gli assoli di chitarra, dove c'è lui che fa di tutto. Sì, la chitarra come strumento sessuale, eccetera. Esatto, eccetera, e invece John Baez, la chitarra, guarda caso, non è elettrica, è classica e la suona in un'altra maniera, generalmente la suona seduta. Perché vi parlo di questo? Perché i T-Rex furono i primi a scompaginare questo mondo, almeno tra i primi, e infatti insomma, non venne presa bene all'inizio. Mark Bolan, il cantante, anche lì frontman possiamo dire dei T-Rex, lo sentirete, insomma, se non lo conoscete, ha una voce estremamente femminile, molto strana, molto ambigua, se vogliamo. E lui come si poneva era in tutta la sua estetica, sia musicale che proprio fisica, molto ambigua a livello proprio di genere, di tutto rappresentazione. L'immaginario, tutto ciò che... ma anche i testi. Tutto. Ed era tutto uno sfuggire dalla normalità e dall'asfissia della vita quotidiana inglese, che negli anni 70 doveva essere una roba massacrante, tant'è che poi è nato il glam non a caso, ed era tutto un modo per sfuggire da questo grigiore. E questo grigiore si sfuggiva attraverso il mondo della fantasia. Infatti i primi testi dei T-Rex parlano di unicorni, di folletti, di cose un po' quasi al limite con la psichedelia. E poi finiscono in luccichini e robe sgargianti, alieni e quant'altro. Poi Bowie porterà tutto questo all'estremo, insomma, e anche una chiarezza. Ma senti, una domanda. Sì. Ma ad esempio, chiaramente Bowie è strabordante, raggiunge un successo internazionale, però appunto quasi, cioè Bowie eclissa quasi il genere, no? A un certo punto, nel senso, sì. Nel mondo non è che è famoso il glam, è famoso Bowie. Nel mondo sì. Cioè in Italia quale potere, cioè ad esempio il glam è arrivato in Italia, in effetti è tipo, una tragedia, c'è stata una tragedia, un tentativo tipo col prog, c'è stato col punk, ma... c'è stato col quell'altro, c'è stato in Italia, ahimè, il glam arriva con i Kiss, cioè mi viene da piangere, ma io penso che con tutte le persone che ho parlato di glam tutti mi hanno citato sempre Kiss, tendenzialmente. Però anche i Kiss era una merda. A parte quello, ovviamente, cioè io i Kiss li conosco per i cartoni animati in cui li prendevano, cioè tutti i cartoni animati anni 90 in poi hanno preso per il culo i Kiss in qualche modo. No, ma la domanda era, cioè, ad esempio i Kiss sono diventati, se ci pensi, famosi quasi, cioè l'internazionalizzazione dei Kiss, ad esempio, è posteriori, cioè erano già famosi, sì. Cioè non è che erano nel momento d'oro dei Kiss, i Kiss in Italia erano famosi, no? No, ma tutti i gruppi più famosi in Inghilterra hanno faticato a farsi strada nel resto del mondo, in particolare, ecco, dove non sono mai riusciti, neanche Bowie tra l'altro, e neanche, se non proprio magari, insomma, negli ultimi decenni, e neanche tantomeno i T-Rex, e negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti erano troppo froci per poter andare e quindi sì, proprio sì. No, non hanno mai minimamente attecchito, e però ribadisco, loro si ponevano in contrapposizione con tutta la l'omologazione dei gruppi hippie folk, e quindi lo sentirete strano perché i T-Rex soprattutto all'inizio erano molto, facevano anche un po', evidentemente si rifacevano la tradizione folk, ma la scompaginavano completamente, la rivoluzionavano completamente. Questa cosa non piacque per un cazzo, ma manco in Inghilterra all'inizio, tant'è che, cioè, figuriamoci fuori dall'Inghilterra. Però in Inghilterra in particolare all'inizio loro erano completamente visti come quelli troppo strani per essere ascoltati. Non sapevo che per esempio il modo con cui iniziò a essere veicolato Mark Bolan e i T-Rex fu attraverso la radio pirata dove trasmetteva John Peel all'inizio, che era Radio London, che insieme a Radio Caroline era una delle radio pirati più importanti del tempo, perché erano quelle, se vi ricordate, sulle navi che trasmettevano in territori extra acque internazionali. Esatto, in acque internazionali, quindi attraverso questo escamotage, diciamo, riuscivano a trasmettere pirate e trasmettevano dei contenuti che altrimenti sulla BBC non avrebbero mai voluto trasmettere. Ed è così che si è diffusa tutta la musica che altrimenti non sarebbe mai arrivata né in Inghilterra né tantomeno da noi. Fu così che arrivò anche T-Rex, arrivarono anche T-Rex, che al tempo erano considerati troppo underground per uscire da lì. E tant'è che nel 70 esce il disco Unicorn, per esempio, da cui vi facciamo ascoltare questo primo pezzo di Tyrannosaurus Rex, al tempo si chiamavano ancora così, ed era prodotto da Tony Visconti, che poi sarà il producer anche di Bowie e di gran parte di tutto il glam, e si sente effettivamente il suo zampino in tutta questa roba. E le cose, insomma, ora andatevi a sentire un po' tutte le puntate in cui vi tedio con tutto il glam. Però ecco, una cosa a cui vi invito di fare caso è proprio l'uso della voce. Non si può vedere chiaramente in radio le movenze che ha Mark Bolan, perché anche quelle dicono tanto. Lui ha una chitarra elettrica, quindi si rifà in qualche modo a un simbolo, come dicevamo prima, anche maschile spiccatamente, la suona anche in maniera piuttosto aggressiva, soprattutto nei secondi T-Rex verso la fine, però lo suona spesso da seduto, cosa che era sconvolgente per gli altri, e mischiava tutta una serie di altri elementi invece femminili, a partire dalla voce, ma anche da come si vestiva, e boa di piume, sì, insomma. E quindi questo ha aperto un mondo. Sentiamoceli, e questo è Chariots of Silk, tratto appunto da Tyrannosaurus, dal primo disco, sì, del 70 di Tyrannosaurus Rex. Stuck with stars on her shoulder, hunters are busy, she slew out.

Questo pezzo super noto, rifatto tra l'altro penso da Nick Cave, da chiunque, strabello e... molto ammiccante a Bowie anche questo, c'era cioè un sacco di robe... Tra l'altro loro erano, si dice fossero un po' in competizione, ma in realtà penso che fosse così perché cioè, effettivamente erano proprio contemporanei, sì, facevano sì, la stessa roba, palesemente copiavano l'uno dall'altro. Il mondo inglese di quegli anni era abbastanza ossessionato da... aspetta, come si chiama? Top of the Pops. Sì. Cioè la proprio la settimana, le classifiche sì, settimanali. Cioè la vita inglese sia di paga lavorativa che... di charts, di classifiche, era proprio settimanale. Sì, è vero, è cioè verissimo. Questa roba... Sì, infatti è vero, loro sì, rubavano le hit a Top of the Pops. Sì. Fichissimo. Questa era Cosmic Dancer, invece del 71, di un album dove i T-Rex si chiamano T-Rex, e Electric Warrior, un album famosissimo. Anche perché si diceva fuori dai microfoni, è vero che in Italia il glam è arrivato male, è arrivato non compreso, tardissimo, tra l'altro spesso viene associato agli anni 80, quando invece non c'entra praticamente, cioè ormai negli anni 80 il glam non esisteva più, era qualcos'altro. Ma sì, perché viene associato malamente al travestimento, sì, ai sì, kiss, come sì, dice, a qualcosa, allo scimmiottare, di... poi sì, esatto, quello che era. Esatto, sì. Sì, c'è arrivato proprio solo la parte più trash, diciamo. In realtà no, era qualcosa di completamente diverso, molto più genuino, tra l'altro molto meno commerciale, ecco, oggettivamente. E nel cioè appunto in quegli anni lì la cosa bella era anche che insomma cioè appunto in Italia a noi ci è arrivato, forse quel poco che ci è arrivato grazie al punk, nel senso che per esempio i T-Rex sono, se guardate, citati dappertutto da tutti i vari gruppi punk, ma a partire dai Clash, dai Joy Division. Chiunque ti dice, io ero a vedere il concerto di Ziggy Stardust nel 71 e sono impazzito, ho detto, Dio che è sta roba, e da lì ho capito che volevo fare punk, i Clash stessi c'erano a quel concerto, c'erano i, non lo so, chiunque poi è andato, i Sex Pistols. Ma fino anche a robe più... magari insospettabile contemporanei, tipo PJ Harvey li considera sì, come fondativi, cioè sono un gruppo sì, che ha che in effetti ora magari non ha è quello che io magari ingenuamente non conosco, però per quanto mi sembra ad esempio bello il disco Electric Warrior, quello del che abbiamo appena, cioè il disco da cui abbiamo appena sentito il pezzo, mi sembra che comunque non siano così noti, forse appunto in Italia o quello che è. Però sta di fatto che hanno avuto proprio un eco enorme nella musica, cioè hanno insomma lasciato tracce qua e là, fino anche a robe tristemente commerciali, perché se ci pensate questo pezzo qua è stato infilato almeno 5 pubblicità, ahimè, ultimi vent'anni. Sì. Ma tra l'altro anche a me viene in mente i Television, che poi sono stati uno tra i primi, cioè i gruppi un po' a cavallo, no? Tra il punk, l'inizio del punk, e però loro prendevano tantissimo le chitarre, questi giri di chitarra che poi c'erano tipici nel glam, poi li ritrovi pure nei Television e tanti altri. Quindi questa era tutta la sviolinata sui T-Rex, tra l'altro appunto ci siamo bruciati i nostri idoli. Così, tra l'altro per chiuderla così in allegria, comunque tutto finisce con nel 77, il 16 settembre, all'alba del 16 settembre, quando Mark Bolan si schianta contro un albero, tra l'altro tornava da un concerto, pare, ed era in macchina con Gloria Jones, che era la sua compagna, e guidava lei, perché tra l'altro, anche questo aneddoto che raccontavo anche in un'altra puntata di Slick Chick, in realtà Mark Bolan non aveva la patente e aveva il terrore di guidare, ma adorava le macchine, cioè aveva proprio una fissa con le macchine, quasi una roba alla Ballard. L'affascinava tantissimo, però c'aveva il terrore ed è morto in un incidente in macchina, gli è esplosa una gomma e si è schiantato su un albero, e così sono finiti i T-Rex, ahimè. Chi di gomma? E vabbè, però rimaniamo in Inghilterra. Ma facciamo un percorso temporale un po' all'incoverso. Cioè, ad esempio, abbiamo appena parlato di nuovo dei T-Rex, che sono un gruppo degli anni 70, ma viene associato agli anni 80. E passiamo invece ora ai King Crimson, che sono un gruppo che per sonorità viene tipicamente associato agli anni 70. Invece noi vi mettiamo un pezzo degli anni 90, vi freghiamo. Sì, andiamo, questi fa proprio i salti mortali. Facciamo uno Stargate verso gli anni 90 e iniziamo a dirigerci verso Dinosaur di King Crimson del 1995. Che è un gruppo forse che non ha bisogno di troppe presentazioni, estremamente virtuoso, molto bello in generale. Devo ammettere che io questo pezzo specifico non lo conosco ma molto, neanch'io, però vado abbastanza sul sicuro, quindi ascoltiamocelo. Sì, ma guarda, anch'io non lo conoscevo, però mi ha colpito un sacco il testo, che ora non ve lo sto a leggere tutto, però è buffo perché Dinosauro, uno si può immaginare chiaramente il dinosaurone, no? No, ecco, loro lo guardano dal punto di vista di un dinosauro fossile, cioè che è già estinto, morto, sepolto, e che viene ritrovato da un tizio che a un certo punto lo scava e lo ritrova, e quindi c'è un pezzo visto dal punto di vista del fossile, fondamentalmente, del dinosauro. Questa cosa mi ha fatto un sacco ridere. Sì, sì, molto bello. Eccolo. Seppelliscici. We'll be right back. difficilissimo tirare sui microfoni durante King Crimson, non sai mai quando finisce. Stavo proprio per dire King Crimson, l'incubo della radiofonia. Sì. Un pezzo potrebbe durare per sempre, potrebbe ripartire, potrebbe fermarsi, ma voi non lo sapete, nessuno lo sa, nemmeno chi è in regia, nessuno. Che bello però. Dinosaur, fra l'altro leggevamo il testo così fuori dai microfoni, è veramente bello e vi invitiamo ad andarvelo a vedere. Sì, no, la prospettiva veramente di... Dai, scriviamo il testo, che cosa raccontiamo oggi? Ma io oggi mi sento un fossile di un dinosauro. Sì, uno che si è estinto. vedrai che... Dice a un certo punto, fa un passaggio molto bello in cui dice... sono caratterizzato dall'ignoranza... Le mie caratteristiche sono l'orgoglio, essere naif, basta un qualsiasi predatore per farmi fuori. Dice questa cosa qua, molto bello. Molto bello, e quindi passiamo invece, sempre siamo su Slick Chick, su Radio Wombat 22 e 26, quindi ormai è già quasi un'oretta che vi teniamo compagnia, la nostra scaletta ancora un po' ce n'ha da farvi ascoltare, e il prossimo pezzo è una perla che abbiamo trovato così, un po' a caso dobbiamo dire. Il bello di Slick Chick, di questa trasmissione, è che ci permette... non solo a voi, ma anche a noi, prima di tutto, di scoprire roba che non sapevamo. Sì, sì. E una di queste è Amedeo Tommasi. Amedeo Tommasi è un era purtroppo morto nel 2021. Un compositore, uno di quelli che hanno fatto la storia della musica, in particolare della musica da film, per il cinema, ma anche per la televisione. In Italia, dobbiamo dire, ce ne sono moltissimi di compositori pazzeschi che abbiamo riscoperto magari più di recente, o qualcuno ha riscoperto più di recente, ma che hanno lavorato indefessamente un po' dietro le quinte, producendo della roba incredibile che ogni tanto la sentivi e dicevi, ma che è sta roba pazzesca? Però ormai la sentivi lì buttata in un film e non ci facevi tanto caso. E invece questi stavano lì dietro a lavorare. E noi, da persone estremamente acculturate, che non fanno altro che cibarsi di cultura, di novità, di questo e di quell'altro, ci siamo ricordati che se parliamo di dinosauri non potevamo non citare l'era glaciale. Certo. Non potevamo. Non è che abbiamo pensato al cartone animato, no, mica siamo così, no, così ignoranti, no, come quel dinosauro. No. E noi, grazie a questo collegamento che nella nostra testa era ben chiaro, libri su libri che non vi stiamo a dire quanti ne leggiamo. Tantissimi. Sì, guarda, lasciamo fare. Aperitivi, libri. Meno male che ci siamo noi, così voi che ci ascoltate potete non leggere grazie a noi che vi raccontiamo queste cose. Ecco, insomma, il collegamento era l'era glaciale, perché Amedeo Tommasi, che tra l'altro così en passant nel 61 comunque suonava con Chet Baker, così. No? Il ragazzo, e che ha fatto musiche per Pupi Avati, insomma un personaggio particolare, e a un certo punto ha composto tra le varie robe anche questo pezzo che si intitolava L'era glaciale, ma non la trovo, maledizione, non mi è riuscito di scaricarla da nessuna parte. Forse l'ho chiamata Tu l'hai trovato. E infatti, no, alla fine ho messo Protozoi. Ah. Ma perché non avevo trovato l'era glaciale? Il punto, la connessione, caro mio lei, era questo. Perché l'era glaciale era effettivamente un brano di Amedeo Tommasi, di un disco, non mi ricordo più quale. Però non è introvabile, io non l'ho trovato. Anzi, cioè, voi ascoltatori, mandateci queste cose che noi non troviamo. Quindi alla fine abbiamo ripiegato su questo Protozoi, con i dinosauri, come dire, ha un legame un po' blando, però in fondo il termine protozoi ho imparato, lo sapevo. Vabbè, abbiamo un notaio qua in sala, protozoo comunque si accomuna gli organismi viventi, dinosauri, organismi viventi, l'abbiamo incastrati, anzi originari proprio. È perché significa primi animali, esatto. Perché comunque erano i primi organismi nel corso dell'evoluzione, quindi insomma siamo sempre lì, cioè si parla di qualche migliaia d'anni, ma insomma... Cioè, ti sei arrivata in... terza media, no? Sì, terza media, i dinosauri non c'erano da, da poco. Dai. Sì, infatti. Quindi insomma, e quindi niente, alla fine il nesso è stato questo un po' tortuoso. Però in ogni caso vi facciamo sentire Protozoi di Amedeo Tommasi, perché oltretutto suona la celesta. E la celesta è uno strumento meraviglioso, bellissimo, e che mai abbastanza ascoltato da dopo il 1700 probabilmente. E quindi ve lo facciamo ascoltare. Thank you. rieccoci qua. Sì, era un po', come dire, abbiamo fatto uno stacco un po'. Ci andava. Ah, così. Volevamo. Bravo, orgoglio. Abbiamo messo, quindi... Allora, proprio per... Noi siamo persone anche poi oneste, non abbiamo bisogno di nasconderci. No. Abbiamo messo praticamente il pezzo paracadute di Amedeo Tommasi, perché l'era glaciale non l'abbiamo trovato. Sì, e poi abbiamo... Comunque... E poi siamo andati con questi ragazzi, i Terror Surfs, con Loco Dinosaurio, una band di Birmingham che però faceva questo amabile rockabilly, surf. Che non ho capito perché poi si fa, cantano in spagnolo. Loco Dinosaurio! Sì, infatti, però il titolo era... Sì. Dai, era... No, faceva schiantare. Ci ha pescato. Tra l'altro loro prima si chiamavano come T-Rex, loro per 2 anni si sono chiamati Terror Saurs. Vabbè, quindi capito, doppio legame con i dinosauri. Beh sì, guarda, ma guarda, non abbiamo bisogno di giustificazioni. Basta con questo postmodernismo, non dobbiamo giustificare. No, infatti, poi siamo persone di cultura. Sì, ricordiamolo, leggiamo tantissimo. Non, guarda, se intanto sentite del frigolio, sono le pagine che girano. Esatto, questa roba qua. Carta. Sì. No, dai, procediamo e torniamo davvero invece a parlare di dinosauri che tendenzialmente tendiamo ad associare appunto alla preistoria e a questo mondo antico. Molto antico e grande più che piccolo, fatto di cose enormi che girovagavano. E andiamo a sentirci due pezzi che invece sono... Allora, uno degli Asino, che sono un gruppo di Spezia, amico nostro, che abbiamo sentito più volte. A parte cazzo dico, che Spezia? Carrara. Sì, no, scusa, anch'io non t'ho... ero persa a guardare l'infinito. Comunque sia, un duo, un power duo molto figo nostrano. E poi un pezzo associato, che si chiama invece Prehistoric Dog, dei Red Fang, che sono un gruppo americano... figoso, accusato un pochino di essere con i suoni un po' troppo macio, però molto figo tutto sommato come virtuosismi e suonini. Quindi niente, passiamo da queste nostre colpe di Amedeo Tommasi e di Terror Surf alla preistoria e ci andiamo a sentire prima Yasino e poi Red Fang con Preistoria e Prehistoric Dog. We'll be right back. Eccoci. Preistorici, ecco, abbiamo appena sentito due pezzi. Cane, sì. Preistorico. Sì. Uno praticamente un cane con la coda diversa, gli asino, e poi Prehistoric Dog con Red Fang. Ma tra l'altro sta cosa che gli asino si portavano dietro il dinosauro, sì, avevano, come dicevi? Sì, erano, avevano in genere, se non ricordo male, un cartonato dietro di Maradona e tipo un dinosauro. Era un peluche. Un T-Rex, sì, sì. No, proprio un cartonato. Ah, cioè, sempre se lo metteva cartonato dietro la batteria, mi pare di sì. Dio. Sì, facevano una cosa del genere. Va bene, e quindi siamo quasi in chiusura, ci mancano due pezzi prima di lasciarvi alla vostra, sì, notte. E chiudiamo con, intanto il primo brano è di Johnny Cash. Che è una micro curiosità, che questo pezzo si chiama Dinosaur Song, è dell'album di Johnny Cash che ha fatto, che si chiama Johnny Cash Children Album, è del 75, praticamente è una sorta di album penitenza, lo fece in uscita dalla riabilitazione, rehab alcolica, praticamente aveva smesso di bere tipo da 6 anni, e fece questo disco in cui racconta, cioè in cui appunto concedendoci e assumendo un'estesa ignoranza della lingua inglese, può suonare come una tradizionale canzone di Johnny Cash, ma invece sta spiegando a dei bambini che cosa sono i dinosauri. No, davvero? Tipo una roba del genere, sì. Che meraviglia, un po' tipo The Might Be Giants. Sì, durante il suo detox. Oddio, avrei voluto essere lì. Va bene, quindi ascoltiamocela subito, dai. Sì, sì. Dinosaurs lived a long time ago. They were terrible lizards, don't you know? Some ate plants and some ate meat. Some ate fish and some ate beets. One was called a Diplodocus. One was bigger than your school bus. One was called a Triceratops. Three horns to stop anything it hops. Now, can't you just see yourself walking along, leading your pet Trachodon, or feeding your Brontosaurus Rex, or scratching your Diplodocus neck, or riding on a Stegosaurus back, or swimming in a Brachiosaurus track? Oh, what a time and oh, what fun playing tag with your Iguanodon. And if we had dinosaurs now, could they get along with a horse and a cow? Well, I wish they hadn't have become extinct. Dinosaurs would be nice pets and friends to have around to run outside and play with every day, don't you think? No, vabbè, meraviglioso. Bellissimo. Capolavoro. Cioè, alla fine ha detto, ma non pensate che sarebbe bello avere intorno a voi dei bei dinosauri? Ha detto proprio questo con questa sua densa. Bellissimo. Che bellissimo. Bello. Disco penitenza. Potremmo farci delle serate. A me mi ha convinto, secondo me è riabilitato perfettamente. Sì, assolutamente. Quindi siamo in chiusura, abbiamo l'ultimo brano con cui lasciarvi alle vostre cose, al sonno, altre robe, quello che volete. Vi ricordiamo che Slick Chick va in onda un lunedì su due, quindi il prossimo lunedì ricomincia le porte di Tannhäuser, perché ci siamo presi una piccola vacanza, ma torneremo, come disse lui. Il buon tuco, stiamo incendendo il buon tuco. Ovviamente. Ma cosa pensate? Cioè, certo, è già tornato. E invece quindi ci risentiamo così ricci che tra due lunedì e però vi lasciamo in compagnia di un gruppo nuovo, abbiamo fatto il circolare, no? Ci riagganciamo. Con l'inizio, sì, e sempre facendo la nostra consueta confusione temporale, abbiamo iniziato dal vecchio, finiamo col nuovo e andiamo a risentirci Dinosaur Junior con Don't Pretend You Didn't Know, che è del disco del 2013 Beton Sky, quindi il disco hanno rifatto a fine, penso forse l'ultimo, boh non lo so, però insomma uno degli ultimi e dopo una rottura storica, che è sempre una garanzia, ecco, uno di quei gruppi che è invecchiato super bene. Vedi, e quindi così finiamo con una bella notizia. Dai, yeah. E quindi ci riascoltiamo tra due lunedì, sempre con Slick Chick, ma rimanete in ascolto di Radio Wombat, ci sono ancora tanti programmi e trasmissioni che potete ascoltare sia in replica che in diretta, e se no ascoltatevi la bobina. Ciao ciao! Ciao! Waiting, not so sure I got.